Siamo molto contenti di lanciare questa campagna per l'uso della bici come mezzo sostenibile di mobilità del territorio e della città. Cospe è impegnato da tantissimi anni per quanto riguarda la sostenibilità ambientale, i temi ambientali. Siamo impegnati nei paesi del sud del mondo, ma siamo impegnati anche qua a sollecitare una riflessione su quanto possiamo fare ognuno di noi in tema ambientale. La mitica ragazzina Greta ce lo ricorda da ogni venerdì. E tanti ragazzi adesso le si stanno mobilitando e noi anche vogliamo fare la nostra parte come adulti, come cittadini di questa città e quindi faremo queste affissioni pubbliche nei viali di Bologna per appunto questa campagna Prenditela comoda, usa la bici come mezzo davvero più veloce e più utile oltre che sostenibile per arrivare nei luoghi di lavoro e non solo. Annameli, quindi i temi ambientali, l'ecologia e la sostenibilità sono finalmente diventati preponderanti nell'agenda dei politici e delle pubbliche amministrazioni. Sì, finalmente, non quanto vorremmo, perché vorremmo davvero che si desse seguito agli impegni internazionali che ogni Stato si è preso per quanto riguarda i cambiamenti climatici e l'abbattimento delle misure che impattano sul nostro pianeta, però noi, società civile, ogni singolo cittadino deve impegnarsi affinché questi accordi vengano rispettati. Il pianeta è di tutti, è un bene prezioso e i cambiamenti climatici ci ricordano quanto rischiamo tutti noi di appunto dell'impatto di questo cambiamento. Il COSPE si occupa, come già sottolineato, di progetti di sostegno e di sviluppo di paesi dell'Africa e di popoli anche del Sud America. L'Italia in tema del traffico è come il terzo mondo. Sì, in effetti devo dire molte città dei paesi dove siamo sono molto più caotiche quasi però molte auto, ad esempio, dismesse vengono poi esportate in questi paesi, quindi abbiamo un'ulteriore responsabilità verso questi paesi. Quindi se ci sono però città caotiche molto inquinate nei paesi del sud del mondo, devo dire che moltissimi, ad esempio, invece contadini nelle aree rurali stanno continuando a combattere contro i cambiamenti climatici e per un'economia di sussistenza che guardi molto anche alla sostenibilità ambientale. Ecco, questo in campo agricolo in modo particolare, secondo me abbiamo anche molto da imparare da questi paesi.